Mi ritornano di notte dei pensieri tutti miei, dei ricordi dell'infanzia profumati come mai. Io ricordo la mia scuola, la mia strada, la città e le canzoni che cantavo di Trenet o di Ferrat. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. La mia casa che tranquilla ci aspettava, ogni sera si sognava senza l'ombra di un timore. Io ti amo e ti dedico sto brano. Io ti amo nella gioia e nel dolore. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Oggi vado per il mondo sotto mille cieli blu, è incantevole e rotondo da Venezia a Tombuctù. Ma i miei più cari ricordi vengono tutti da te, dai tuoi verdi paesaggi, i tuoi villaggi, i tuoi caffè. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. La mia casa che tranquilla ci aspettava e mia madre sorrideva senza l'ombra di un timore. Io ti amo e ti dedico sto brano. Io ti amo nella gioia e nel dolore. Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collata di speranza e ti ho presa nel mio cuore. Ti ho presa nel